Nei tuoi occhi ho visto i girasoli di Van Gogh e ti ho sentita più vicina per un attimo. Ho dato tutto ciò che avevo fino a perderlo, il nostro amore come arte in ogni secolo. Passano i giorni e sogno un colore per ogni stagione. Questa tristezza è solo l'essenza di arte incompiuta che chiamano amore. Riflesso di luce come un girasole, eco di vita, parole lontane. Vedo lontano mille sfumature che rendono l'attimo quasi immortale. Nei tuoi occhi ho visto i girasoli di Van Gogh e ti ho sentita più vicina per un attimo. Ho dato tutto ciò che avevo fino a perderlo, il nostro amore come arte in ogni secolo. E le tue labbra come fiori di Monet, il tuo profumo è il mistero di Stonehenge. Ho mille quadri qui appesi sul muro, solo con te ci vedevo un futuro. Prima anche il cielo sembrava più etereo, ora è coperto come fosse fumo. Soffia la polvere sopra il tuo cuore, giurami che ti vedrò ritornare come un dipinto che ha perso colore. Promettimi che tornerò a disegnare e ti guarderò come se fossi un dipinto di Salvador Dalì. Un altro lunedì vorrei fossi qui come due amanti d'Irene Magri. Nei tuoi occhi ho visto i girasoli di Van Gogh e ti ho sentita più vicina per un attimo. Ho dato tutto ciò che avevo fino a perderlo, il nostro amore come arte in ogni secolo. E le tue labbra come fiori di Monet, il tuo profumo è il mistero di Stonehenge. Solo vuoti corridoi.